gioco gioco. L'anziatore si armò, cominciarono le piogge di fuoco. Per molti l'aereo si usa così. Volare sì, colare no. Viva l'aereo, se partirò, se arriverò. Sarà in aereo, c'è chi scaccia le bombe, chi ripara le sonde, c'è chi butta i palazzi, chi li abbatte coi razzi. Volare sì, volare no. Viva l'aereo. Sembrava l'inizio di un grande servizio, in pochi minuti ridurre lo spazio, ma appena staccati quei piedi da terra si vola soltanto a fare la guerra. La copertina della trasmissione stasera ce l'hanno regalata quei ragazzacci dei Pancras che colgono bene il punto. L'aereo è vero, restringe il mondo e avvicina i popoli, ma è vero anche che li bombarda dall'alto e li massacra. Ben ritrovate sui 103.1 di Radio Città Fucico per l'ennesima notte in compagnia di Road Radio, parole e musica in movimento. La trasmissione che chiude il palinsesto settimanale della radio e che dunque ha l'onore di augurarvi l'ultima buonanotte e la buona settimana entrante. Dopo treni, macchine, navi, stanotte, diciamo così, proviamo a volare. Parole e musiche sul volo. Ma sarà vero viaggiare? Italo Calvino diceva che volare è il contrario del viaggio, attraverso una discontinuità dello spazio. Sparisci nel vuoto, accetti di non essere in nessun luogo per una durata che è anch'essa una specie di vuoto del tempo. Poi riappari in un luogo, in un momento, senza rapporto col dove e col quando in cui eri sparito. Orson Welles invece diceva che ci sono solo due emozioni su un aeroplano: noia e terrore. Piccola poesia di Umberto Saba. Vanno in su dove il cielo è azzurro netto, dove le nubi si vedono sotto. Chi resta a terra agita il fazzoletto. Il titolo: partenza d'aeroplani. E dunque, sia viaggio non lo sia, sia noia o sia terrore, partiamo anche noi. Partiamo da chi se non da lui, Charles Augustus Lindbergh. Personaggio certamente controverso, no? sono note le simpatie che ebbe per il nazismo, per Hitler, ma che fu il primo aviatore a compiere la traversata dell'Oceano Atlantico in solitaria e senza scalo. Era il 20 maggio del 1927 quando partì da una località vicino a New York e dopo 33 ore e 32 minuti atterrò a Parigi. Sono che il contabile dell'ombra di me stesso. Se mi vedete qui a volare, è che so staccarmi da terra e alzarmi in volo, come voi altri stare su un piede solo. Difficile non è partire contro il vento. Ma casomai senza un saluto. Non sono che l'anima di un pesce con le ali. Volato via dal mare per annusare le stelle. Difficile non è nuotare contro la corrente, ma salire nel cielo e non trovarci niente. Dal mio piccolo aereo di stelle io ne vedo. Seguo i loro segnali e mostro le mie insegne. E la voglio fare tutta questa strada, fino al punto esatto in cui si spegne. E la voglio fare tutta questa strada, fino al punto esatto in cui si spegne. Difficile non è partire contro il vento, ma casomai senza un saluto. Difficile non è nuotare contro la corrente, ma salire nel cielo e non trovarci niente. Sapeva andar diversi il grande Ivano Fossati. Salire nel cielo e non trovarci niente. E salì e tante volte nel cielo, trovandoci, ai noi, al fine la morte, Amelia Earhart. Pioniera del volo e icona del femminismo ante litteram, nel 1932 fu la prima donna a tentare la traslata dell'Atlantico. Scomparve tragicamente appena quarantenne nel 1937, mentre stava tentando di compiere il giro del mondo insieme al suo navigatore Fred Nolan. Nel 1976 Joni Mitchell, nel suo capolavoro I Gira, la commemorò con il brano Amelia. Laurie Anderson ne ha fatto addirittura un progetto musicale, uscito tra l'altro quest'anno dopo una lunghissima gestazione. L'album è composto da 22 tracce che ripercorrono le tappe di quell'ultimo tragico volo, e noi andiamo a sentirci India e On Down to Australia. June 17th, Karachi. Black eagles at 500 feet. Hills roll down like carpets down to the water's edge. Southerly winds, a mist, a sudden sandstorm. A sudden sandstorm. A sudden sandstorm. Trees and jute mills glaring in the sun. June 18th, grey skies. Grey skies. We landed Dum Dum. Fishing for birds. Bought a knife. should kneel down, not over the open ocean, where there's no place to land, no place to land, no place to land. Sergio Endrigo, tra le tantissime bellissime canzoni che ha scritto, ce n'è una, Contro la guerra, dedicata a Francesco Baracca, morto in un combattimento aereo durante la Prima Guerra Mondiale. Gli ultimi versi, quelli che chiudono la canzone, sono veramente molto, molto toccanti, per cui ci tengo a condividerli con voi. Dice il poeta che, morendo, la vita intera si rivede in un momento, i giochi, le speranze, le paure, i volti amati, gli amici, le avventure. Luglio 1918, c'era un uomo che perdeva tutto e l'Italia agraria e proletaria conquistava il primo asso dell'aria, come un uccello ferito che cadendo diventa solo piume e vento. E poi silenzio. È probabile che Sergio Endrigo abbia tratto spunto per queste sue bellissime parole da una poesia del poeta irlandese William Yeats, An Irish Airman Foresees His Death, un aviatore inglese prevede la sua morte, che in molti hanno messo poi in musica, Shane McGowan tra gli altri, il grande Shane McGowan, tra l'altro a Natale ricorre il suo compleanno, ahimè, ma ci ha lasciato l'anno scorso. Però noi andiamo ad ascoltarcela nella versione dei Waterboys. I shall meet my fate somewhere among the clouds above. Those I fight, I do not hate. Those I guard, I do not love. My country is Kiltartan Cross, my countrymen, Kiltartan's pool. No likely end could bring them loss or leave them happier than before. No law nor duty bade me fight, nor public men, nor cheering crowds. A lonely impulse of delight drove to this tumult in the clouds. I balanced all, brought all to mind. The years to come seemed waste of breath. A waste of breath, the years behind, in balance with this life, this death. A waste of breath, the years behind, in balance with this life, this death. Un aviatore irlandese prevede la sua morte. Io lo so che sarà là, da qualche parte tra le nuvole. Sarà là che incontrerò alla fine il mio destino. Io non odio questa gente che ora devo combattere e non amo questa gente che ora devo difendere. Il mio paese è Kiltartan Cross. La mia gente, i suoi contadini, nulla di tutto ciò può renderli più o meno felici. Né la legge né il diritto mi spinsero a combattere, non fu la politica né l'applauso della folla. Un impulso di gioia fu, un impulso solitario che mi spinse un giorno a questo tumulto fra le nuvole. Nella mia mente ho tutto calcolato, tutto considerato, e gli anni a venire mi sono sembrati uno spreco di fiato gli anni che ho passato in paragone a questa vita e a questa morte. An Irish Airman Foresees His Death, una poesia di William Yeats messa in musica anche, l'abbiamo appena ascoltata, dai Waterboys. Le Courvoisier, diceva che il volo ci ha regalato gli occhi degli uccelli, un punto di vista prezioso per osservare tanto mondo tutto insieme e lo scempio che ne stiamo facendo. Quel che è certo è che della terra se ne può far scempio dall'alto, anche dall'alto, dal cielo si radono al suolo territori, dal cielo si sterminano popolazioni. Qualcuno ha provato anche a capirci che cosa abbia in testa, che cosa veda, che cosa prova un pilota che sta nel cielo prima di bombardare dall'alto, che cosa provi, cioè un pilota di guerra. Non per entrare nel merito del motore, ogni motore ha una musica ed io la so. Così per sempre nel vento la farò cantare, per questa mia povera terra da sud a nord. E quanto è solo un uomo lo sa solo Dio, mentre volo sopra le ferite delle città. Come a un grande amore gli dico addio, e come solo un uomo lo so solo io. Oltre le nuvole, oltre le nuvole, o se possibile ancora un minuto più in là, con questa notte i miei piedi più nera e più buia, vederla da qua. Ma un giorno il giorno tornerà. Sotto le ali e passa un'altra notte su questa guerra, e sulle case degli uomini tutti uguali, nel grande orfanotrofio della terra. E a cosa serve un uomo? Lo so solo io. Spargo sale sopra le ferite delle città. E come a un grande amore gli dico addio. E a cosa serve un uomo lo sa solo Dio. Enola Gay è il nome del bombardiere che il 6 agosto 1945, poco prima del termine della Seconda Guerra Mondiale, sganciò sulla città giapponese di Hiroshima la prima bomba atomica della storia. Enola Gay è anche il brano che rese famosi gli Orchestral Manoeuvres in the Dark. La canzone diventò, dopo qualche equivoco iniziale, dovuto sostanzialmente al contrasto che c'era tra il tema drammatico che trattava, no, invece al ritmo allegro di un pop elettronico. Però negli anni diventò un simbolo per i pacifisti e per il pacifismo, e noi ce l'andiamo immediatamente a sentire. Enola Gay. Thank you. Tra i piloti dell'Enola Gay c'era anche Claude Robert Heatherly, che dopo la guerra, dilaniato dagli incubi e dal rimorso, tentò più volte il suicidio e fu ricoverato in vari ospedali psichiatrici. Un uomo ossessionato dal ricordo, che visse per anni tra rapine, assalti alle poste, uso di sostanze e un'infinità di ricoveri in manicomio, in ospedali psichiatrici. Lui, finché, spinto tra l'altro dal filosofo tedesco Gunther Anders, che mi scusino i tedeschi la pronuncia, Gunther Anders, con cui aveva iniziato a intrattenere un epistolario, spinto da lui scrisse una lettera pubblica di scuse ai familiari delle vittime in Giappone. Questi l'accolsero con grande apertura, ritenendo Claude Robert Heatherly, tra l'altro, una vittima come i loro familiari di quella strage, e da lì visse un po' meglio fino, diciamo così, al sopraggiungere della morte. Mi viene da dire che tutti dobbiamo qualcosina a quest'uomo, perché una vicenda così orrenda come l'annientamento dell'uomo sull'uomo, di fronte a cotanta disumanità, forse l'unico tratto di umanità è stata proprio l'esistenza sofferta e disperata di Claude Robert Heatherly. Ma chissà che forse dallo stesso identico cielo da cui bombardano, da cui massacrano, insomma, da quello stesso cielo di Enola Gay che usiamo per distruggerci, potrebbe arrivare la salvezza. Mezzo secolo fa, più o meno, Ziggy Stardust, alter ego di David Bowie, ci raccontava l'arrivo di un uomo dallo spazio che veniva sulla Terra per incontrare gli umani con l'obiettivo di salvarli, ma anche lui ne aveva paura. Non mi resta che darvi la buonanotte, la buona settimana e soprattutto la buona fortuna. E stasera lo faccio con Starman di David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. There's a star.